Station. Buonasera sulle note degli Anghere brasiliani che apprezziamo veramente tantissimo. Ancora mercoledì, ancora un mercoledì con Metal Zone, ma un mercoledì davvero speciale perché questa sera sono venuti in sede da noi addirittura i Madness Circus. Ciao a tutti, buonasera a tutti. I Madness Circus composti da Salla alla voce, Marco alla chitarra e G alle batterie. Yes. Allora, cari Madness Circus, vi ho ascoltato veramente con piacere, veramente siete degli artisti metal che mi avete colpito particolarmente. Grazie, siamo felici. E quindi stasera voglio che voi parliate del vostro lavoro e voglio sapere veramente tutto di voi come vostro primo e fan. E noi ti daremo tutto, non ti preoccupare. Allora, ciao ragazzi, ancora io sono Sal. Dunque, fondamentalmente dobbiamo cominciare a parlare un po' della nostra storia, quindi presentiamoci alla buona vecchia maniera. Ci siamo formati 5 anni e mezzo fa, con una formazione diversa da quella che abbiamo adesso, soprattutto adesso, ma ci arriverò pian piano. E abbiamo iniziato a sperimentare su quello che era il new metal, perché fondamentalmente ci apparteneva da un punto di vista cronologico come genere. Può far sorgere un po' il naso questa tua affermazione, lo perché so, parliamo lo di so. New Metal, vecchi metallers, angoscia, non mi figuriamoci voi. Infatti abbiamo dovuto sgomitare parecchio perché Purtroppo, proprio per, però, sai cosa? Era forse uno dei motivi per cui abbiamo scelto di sperimentare in quella direzione, perché era quello nel quale si lavorava di meno, in un certo senso, perché eppure era un genere che poteva soddisfare tutti, a nostro parere. A noi piace che la nostra musica sia coinvolgente, principalmente. E il new metal, che ne dicano i metaller, è questo, cioè il metal è completamente è il coinvolgere l'ascoltatore al di là di ogni tipo di genere musicale, quindi fondamentalmente, perché un brano di Linkin Park lo ascolta chiunque. Non lo dico a caso, Linkin Park, in quanto essendo un grande fan, è stata una delle mie influenze. Avrei anche qualcosa da dire, perché su Metal Zone abbiamo parlato abbondantemente di Linkin Park, però mi sono trovato un po' io a disagio perché gli ultimi album era difficile. Sì, allora guarda, voglio dirti una cosa, sì, anche io, perché il motivo per cui io passo, ed è vero, passo molto più new metal in questa rubrica, è perché mi piace di più. Anche perché parlare di gruppi che hanno fatto la storia, no? Mi sembra abbastanza ripetitivo, e quindi sono anche di mentalità aperta, sì, e voglio parlare giusto, di qualcosa di nuovo, perché sì, c'è sempre qualcosa di in evoluzione. Quella particella new ha un ecco, la vostra ispirazione, sì, da dove viene? Allora, fondamentalmente noi cerchiamo sempre di aggiornarci. Infatti stasera speriamo di vedrete e ascolterete un po' la nostra evoluzione in questi 5 anni e mezzo. Come ti ho detto, siamo partiti dal classico, cioè per noi esistevano band come Deftones, Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, Godsmack, Disturbed, e posso andare avanti per tutta la trasmissione. E abbiamo però non disdegnavamo anche un occhio a quello che era il classico, in quanto alcuni, cioè già G, il batterista, sono interessati a quelli che erano i generi un pochettino più trash, o anche il progressive è stato molto ci ha influenzato, proprio per non dare, anche per soddisfare quel pubblico che magari andava desiderava ascoltare qualcosa di più tecnico, che magari nel new metal è un po' strano da ascoltare. Infatti nel primo album ci sono chicche dal punto di del nostro bassista, come è a soli di basso. Ok, hai detto una cosa che è interessante. Primo album, parlami del tuo primo album. Allora, il nostro primo album è stato veramente una scommessa, perché considera che noi l'abbiamo registrato dopo solo un anno che ci eravamo formati, un netto e mezzo, orientati giù di lì. Dopo aver partecipato ai classici contest, abbiamo deciso di voler iniziare a registrare qualcosa, perché abbiamo prodotto in quell'anno più della metà del nostro repertorio. Voglio ricordarlo, bisogna dare merito, la vostra vittoria al Carlsberg Live Contest. Ovviamente. È stato partito da lì, no? Sì, quella è stata una prima affermazione di quello che erano i nostri, diciamo così, obiettivi. Cioè, un primo momento in cui abbiamo detto sì, la nostra musica piace. Quindi è un traguardo importante che abbiamo raggiunto, e ci teniamo sempre a sottolinearlo. Allora, non ci resta che ascoltare. Assolutamente. Cosa vogliamo, sì, ascoltare? Ascoltiamo. Allora, ascoltiamo dal primo album la title track, che è Welcome to the Madness Circus, e poi il primo singolo dei Madness Circus, che è Death by Silence. Prima di sentire le vostre canzoni, però metto una canzone dei Deftones. Ci Cronos, sta, lo so, lo sappiamo che ci hai detto già fuori onda che il tuo cuore appartiene al mio cuore è abbastanza particolare, ma è completamente distorto, quindi ci troviamo d'accordo. Va bene. Quindi sentiamo i Deftones in questo momento, ma vi ricordo che loro sono i Madness Circus e questa è Metal Zone. Yeah. Stage. We'll be right back. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to our show. Please come in and let your eyes be amazed. Come in, take a seat and enjoy the madness in us. Yeah. Torniamo live con i Madness Circus. Oh yeah. Ciao a tutti di nuovo per chi si è appena sintonizzato. Ancora Metal Zone, ancora sempre. Mercoledì, che noi non seguiamo, noi non siamo quelli che seguono il calcio, ma seguono il metal, ricordiamo. Sempre. Non è vero. Sempre. È molto più salutare, a dire la verità. Vabbè. Fatta sta, voglio tornare alla vostra storia musicale, sì, perché mi intriga veramente tanto. Abbiamo sentito questa canzone, l'ultima canzone, Dazed by the Silence. Vorrei che voi mi parlassi un po' della realizzazione del video, che io ho trovato veramente fatto bene. Allora, innanzitutto vorrei, prima di parlare del video, voglio ringraziare tutte, per chi avesse visto il video, e vi consigliamo di andarlo a vedere sul nostro canale YouTube Madness Circus. Dateci dei link. Abbiamo chiamato tantissimi amici. Ed era anche un periodo difficile, perché era il periodo delle feste di Natale, e ci siamo stupiti di quante persone volessero essere all'interno del nostro video, e quindi vi ringrazio. Il video è stata una prima sperimentazione, perché la sceneggiatura anche è stata fatta all'interno della band. Cioè, siamo sempre stati un gruppo nel quale abbiamo preferito sperimentare prima da soli, e a un certo punto, se dove non riuscivamo ad arrivare, chiedere ausilio. E quindi, come ti ho detto, abbiamo scritto insieme anche le inquadrature, i set, abbiamo cercato le location, E nel periodo di Natale organizzare più di 20 persone e dire dovete venire a quest'ora per me. Più che altro nel periodo di Natale registrare in una cella frigorifera. Quindi cioè, è stato veramente uno sforzo fisico e mentale non indifferente. Ma ci siete riusciti alla grande. Grazie, siete riusciti veramente alla grande. Grazie. Andiamo avanti. Nel 2012 sì. C'è qualcosa che bisogna assolutamente ricordare. Perché Virgin Radio, a quanto pare, riconosce abbastanza bene. Perché ha organizzato la cosiddetta Battle of the Bands Italy. Sì. Cosa è successo alla Battle of the Bands Italy? Raccontacelo. Ragazzi, è stato, penso sia stata una delle cose che ci abbia segnato di più. In quanto mi ricevo una telefonata da mia madre un giorno che mi comunica che l'Hard Rock Café ci aveva chiamato perché voleva che partecipasse, cioè nel senso ci aveva selezionato per i live della Battle of the Bands. Considera che la Battle of the Bands è stata una scommessa in quanto noi ci siamo iscritti a pochi giorni al termine delle votazioni e abbiamo veramente martellato per far parte di questa manifestazione. E quando ho parlato con l'organizzatrice e la promotrice dell'evento, per me era veramente qualcosa di assurdo, non ci credevo ancora. Quando poi ti trovi sul palco con davanti a te Edoardo Bennato che ti fa i complimenti e scrive Edoardo Bennato che magari per i metallari, come dire, può sembrare può far storcere un po' il naso, però personalmente io adoro Edoardo, esatto, quindi non scherziamo proprio. No, e però quando lui scrive un brano per te, una strofa di un brano per te mentre tu stai suonando, puoi dire di essere non diventato qualcuno, ma che sei sulla buona strada. E soprattutto quando ti comunicano che suonerai alla finale. Finale. E quando siamo stati selezionati su 230 band in tutta Italia, siamo arrivati 230. Sì. 230 secondo che hanno partecipato solo ai live. Solo prima live. Erano più live. Di 3000 band. Esatto. Cioè, nel senso, quindi a noi ci ha giudicato Saturnino, Giacomo Castellano, abbiamo Firenze, abbiamo avuto e io chitarrista ho avuto l'onore di conoscere Giacomo Castellano che mi ha giudicato e ci è andata bene ci è andata male con Giacomo Castellano, perché se ci andava bene in giuria, ovviamente ci è andata male tra virgolette, c'erano Elite FIBA, c'era Ghigo Renzulli e Piero Pelù. Esatto, quindi una giuria di tutto rispetto dove... No, ma suonare poi sul palco dell'Hard Rock Café a Firenze è stata un'emozione ed è stato un altro momento in cui abbiamo detto sì, stiamo facendo bene. Allora calcola questo, questa è l'esperienza dell'Hard Rock Café, la Battle of the Band. È stata in sé, indipendentemente da una cosa rilevanza insomma particolare come contest a livello nazionale eccetera eccetera, ma è stata una grande esperienza da gruppo, perché io me la ricordo benissimo e me la ricorderò per sempre, insomma, perché in quel periodo andavamo e tornavamo da Roma, da Firenze, quindi c'era quel periodo di attività da band, della trasferta, quindi tu vivevi di quello spogliatoio, tu vivevi di momenti del gruppo, indipendentemente che andavi a suonare nell'Hard Rock Café, che ti trattavano bene, la giuria bella, tutto a posto, però era questo è quello che a noi piacerebbe fare e che ci è piaciuto fare insomma in un lungo periodo, cioè suonare in giro e non stare sempre staticamente nello stesso posto, nello stesso locale, nella stessa zona. Quello è assegnato, questa cosa, sì. Indipendentemente dal discorso della Virgin Radio, che comunque ci annunciò, insomma, la Radio FM ci annunciò molte volte. Infatti, ricevevo in delle radio, amici, esatto. Siete, cioè, non ci credeva che Ringo avesse detto il nome della nostra band. Esatto. Ma siete voi, cioè siete proprio voi. Sì, siamo noi. Siamo gli unici. Beh, che dire, un'esperienza assolutamente bellissima. Fantastica. Che io vi ringrazio di aver condiviso qui con i nostri follower di La Direction e di a proposito, una cosa importantissima, perché è proprio da stimolo e da motivazione per le nuove band che si stanno formando adesso. Infatti io volevo ringraziarvi sempre per l'opportunità che ci avete dato anche stasera di far ascoltare la nostra musica in primis, ma anche di raccontare la nostra storia, perché far ascoltare la musica è anche tra virgolette semplice in un certo senso, però dare l'opportunità di spazio per parlare, per raccontare quello che c'è dietro un lavoro musicale è molto più importante. Quindi vi ringraziamo ancora una volta. Ma noi lo facciamo volentieri, perché io sono sempre convinto che la radio sia dialogo ed il dialogo non deve morire mai. Mai, Insomma, mai, mai, ma mai. torniamo alla musica. Yes. Cosa vogliamo sentire, miei cari? Sentiamo Allora, la vostra ispirazione, perché so che vi piace un gruppetto che io apprezzo assolutamente particolarmente. sì. E sì, sentiamo un po' di Limp Bizkit, un po' di sana new metal vecchio stile. Anche se questo brano qua è uno dei è all'interno di uno degli ultimi album di Gold Cobra, di Golden Cobra, che tra l'altro è uno dei dischi che ci ha influenzato anche nelle ultime produzioni. Infatti, dopo faremo ascoltare anche il nostro singolo, che è a cavallo tra l'ultimo album e il primo album, che è Nothing Remains. Ok, allora con i Limp Bizkit, Shotgun, ma soprattutto con i Madness Circus, con il loro singolo Nothing Remains, vi Yeah. ricordo che questa è sempre Metal Zone. like a soul, letting all the pain I know. After question me what's true, new scenario I got to look. I found a piece of you to go away, that'll be hard to replace. Nothing more to be afraid, now that I hate you. You, you're fading away. Ancora live, ancora con i Madness Circus. Abbiamo sentito il loro singolo Nothing Remains. Yes. Stavamo parlando e discutendo animatamente, come sempre nella Metal Zone, durante le canzoni che passiamo. E quello che volevo chiederti in modo più specifico è di parlarci un po' delle vostre sessioni di prova, specialmente inerenti a questo singolo e il vostro lavoro successivo. Sì, allora, parlando di questo singolo, c'è da dire una cosa. Che questo singolo viene fuori da un problema, cioè che purtroppo prima di registrare questo singolo noi un membro del nostro, della nostra lineup viene meno, che è il nostro ex chitarrista, e dato che noi le difficoltà ci piace crearci dei problemi, oltre ad aver perso un chitarrista abbiamo cominciato a dire: ma perché non iniziamo anche a sperimentare con qualcosa di nuovo? Tu sai meglio di me che il new metal è sempre stato caratterizzato dalla presenza di un DJ all'interno della band. Noi il DJ non l'abbiamo mai avuto, anche perché se ne trovano. È stato difficile trovarne uno che volesse suonare questo genere qua. E allora abbiamo cominciato a pensare, dato che il nostro bassista aveva iniziato a sperimentare con quella che erano i suoni dubstep o comunque che era l'elettronica in generale. E in quel periodo era anche uscito un album dei Korn che era Path of Totality, che mi è piaciuto particolarmente. Abbiamo cominciato a pensare di innestare questi nuovi suoni, e il risultato è Nothing Remains. E infatti alle prove abbiamo cominciato a portare più materiale, perché abbiamo dovuto dotarci di computer, di vari software, quindi abbiamo complicato di più le cose in un certo senso. Complicato in modo positivissimo, direi, perché posso intendere, mi permetto di dire, sì, forse questo singolo è un po' un calderone, sì, e varie idee che avete messo insieme, sì, avete provato a creare un'alchimia. È stata una scommessa, è stata una scommessa nel senso che comunque era una sperimentazione, come tutte le sperimentazioni non sai come viene fuori, viene su. A noi quello che è venuto fuori è piaciuto, e l'abbiamo anche poi migliorato, cioè a nostro parere, nel nuovo album. Parliamo di questo nuovo album. Parliamo del nostro nuovo album. Allora, il nostro nuovo album è, secondo noi, è l'orgoglio dei Madness Circus. Sia per tanti motivi. Innanzitutto perché è un album completamente autoprodotto, ma non solo da un punto di vista economico, da un punto di vista di sangue, anima, sudore. È perché, una vostra creatura, sì, tutta vostra. Perché l'abbiamo registrato all'interno degli studi di Radio Entropia, che è la nostra anche etichetta di distribuzione, da noi, cioè nel senso che il fonico di studio era il nostro bassista. L'abbiamo curato in ogni sua parte. Io e il batterista, io e G abbiamo curato le grafiche. G stesso, che è un videomaker, ha curato le parti di video insieme a me, che abbiamo scritto una sceneggiatura, perché poi ne parliamo del video, perché è un'altra, sì, perché l'ho visto, è un'altra cosa che ci ha particolarmente. Quindi secondo noi è l'orgoglio dei Madness Circus, e nel quale poi abbiamo scommesso ancora di più, perché abbiamo portato avanti quello che c'era in Nothing Remains, l'abbiamo diciamo così estremizzato in un certo senso. Si evince chiaramente dall'ascolto di questo album. Mi ha fatto tornare un po' a sonorità old school, che yeah, io apprezzo particolarmente, e che avevo trovato in larga profusione nel primo album. Sì, sì, sì, sì, come, sì. Come vi dicevo, perché sono sincero, sì, l'ho detto a voi, lo no, dico no, anche ai nostri follower, sono rimasto un po' spiazzato da questo. No, Nothing Remains. Sì, ma molti. Non sei, allora, non sei stato l'unico. Ci sono state molte persone che ci hanno detto: ma cosa state facendo? In che direzione vi state muovendo? La risposta era sempre la stessa: non lo sappiamo. Nel senso che fondamentalmente la sperimentazione è così: tu provi, vedi come va, e ne ricavi dei risultati che poi porti avanti. Perché noi stiamo venendo dal discorso di Welcome to the Madness Circus, l'EP. Un EP che praticamente ha avuto un certo riscontro dal punto di vista di critica. Abbiamo più di 30 recensioni di webzine, eccetera, eccetera, che ci hanno recensito con voti parecchio alti. Io ho letto anche Metal Hammer. Sì, sì, Metal Maniac. Metal Maniac. Metal Maniac, sì. Metal Maniac e altre cose. Allora, alla fine è un EP, come tutti i gruppi, insomma, che si mettono in gioco, insomma, perché non è che nasci gruppo già affermato all'ambito di gruppo emergente, discorso emergente. Allora, noi prendemmo praticamente tutti i 5 brani, li analizziamo, di questo EP di Welcome to the Madness, che tra parentesi facevano parte di altri di 8-9 pezzi che già avevamo scritto. Abbiamo detto: secondo voi, alle persone, cosa è piaciuto, cosa vogliono e cosa effettivamente, qual è la direzione? Allora, Dead Set Body Silence è la prova vivente che i Madness Circus dovevano continuare a viaggiare su quel tipo di impronta, quindi ritornelli melodici ma cazzuti, parti rap rappate, perché Salvo rappa bene e rappa, praticamente deve rappare, punto. Riff semplificati, groove molto, eccetera, eccetera. Ho procurato 3 infarti ai metallari in questo quindi praticamente, cioè, scordiamoci, insomma, perché per esempio Feed Your Contradiction, che è un altro pezzo che, tra l'altro, molti pezzi dell'EP noi li abbiamo poi nel corso degli anni rifatti. No, non scartati, no, rifatti. Modificati. Cioè, Madness Circus non è la Madness Circus che magari ascolti nel disco. Le liriche, qualche riff sì, però abbiamo tolto quel vecchio che avevamo, insomma, quindi è stato un esperimento ed è giusto che sia così, che quell'EP, ma come tanto meno, insomma, le webzine non si sbilanciano neanche tanto a giudicare, a valutare un EP con un voto magari altissimo, perché un EP è un'introduzione a qualcosa. Ok, benissimo. Reborn sta suscitando un certo tipo di fascino per quello che poteva essere. Per chi è appassionato sempre di metal vecchio stile, normale, gli piacerà sempre Welcome to the Madness Circus, perché c'erano delle influenze metalcore dentro. Ora stiamo portando avanti il discorso con Reborn di sì, un new metal, ma anche con delle contaminazioni alternative metal, con dei suoni molto americani e non europei, varie cose, insomma. Sì, come dicevamo, è una sperimentazione. Noi abbiamo sperimentato anche da un punto di vista di promozione del disco. Prima te ne parlavo. Il disco è. Non esiste un CD fisico del disco. Questo è il futuro, secondo me, perché la vostra Sì. idea è stata assolutamente geniale. Devo Parlaci di dire la questa idea. verità, devo dire la verità. Parliamone di questa No, idea. è stato un po' difficile da diffondere, però quando ha preso piede è andata in discesa. Il CD, come ho detto, non ha un disco fisico, ma c'è un booklet nel quale ci sono i brani con i testi, e accanto ad ogni brano c'è un QR code, un quick response code, cioè un codice che tu scansioni con il tuo smartphone o qualsiasi device che tu abbia, che abbia una fotocamera fondamentalmente, che ti collega ad un URL dal quale puoi scaricare il brano. Facilissimo, ragazzi. Quindi considera che poi abbiamo lasciato open il codice, cioè nel senso che non è monouso e c'era possibile farlo, però noi non vogliamo che fondamentalmente vendere. A noi interessa avere un contributo, sì, ma più che altro che la nostra musica sia diffusa. E con questo metodo, noi in meno di 24 ore dalla presentazione del disco abbiamo distribuito più di 100 copie, che sono 100 copie nel senso distribuite, considerando che i QR code sono aperti, non sappiamo quante persone stiano ascoltando la nostra musica. Ma sicuramente vi staranno ascoltando adesso, perché andiamo a sentire due brani di questo ultimo vostro Assolutamente. lavoro, ossia Reborn. Andiamo ad ascoltare If a God Exists e My Nature. Yes. E dopo i Madness Circus ci faranno una sorpresina. Questa è sempre Metal Zone. Stay with us. Enough. Everybody's waiting for the end. Torniamo live con i Madness Circus che si stanno un attimo preparando. Aspettiamo un secondino perché ci vogliono eseguire un live. Beh, sì, ci sta. Vogliamo sentire Fade Away. I'm sinning away from you, for you that's fine. I'm the one that always can give you, the one that always can get you. And now's alone, it is on tear to cry. Oh, yeah. Here's tears to cry. Now I'm tired of this just fade away from my dreams. And now I'm tired of this. You are hurting me. You must fade away, fade away, fade away. Ooh. You gotta fade away. I'm in front of you, and I won't be the one you always knew. Listen to me, you told enough, faking everything until the last. And I won't be the one that always forgive you, the one that always can get you. And now you're alone with your tears to cry. Ooh. Your tears to cry. Now I'm tired of this. You are hurting me. You must fade away from my dreams. Now I'm tired of this. You are hurting me. You must fade away. You gotta fade away, fade away. You gotta fade away. Fade away, fade away, fade away, yeah. That's right, yeah. Grazie Madness Circus, che esibizione, voi, potentissima, non potete immaginare cosa sto provando in questo momento. Sul serio, veramente. Va bene, va bene. Mi avete aggiustato la giornata oggi. Grazie, ragazzi. Grazie, grazie, ragazzi. Vedi, vedi, questo è il bello. Questo è il bello. Però, che quando te, quando suoni. Questi sono i Madness. C'hai un feedback subito. Oh. Per questo ci piace questo genere qua. Oh, che bello. Perché, come hai detto tu prima, questo genere qua è o è sì o è no. Esatto. Cioè, se no, non ti fa muovere la testa, non funziona. Non ma funziona. Ma anche perché non tipo fare headbanging fa nel genere, no? Abbiamo messo tipo new metal, spezzare il collo. Genere da palestra. Sì, è vero. No, genere, sì, sempre. Genere di chi vuole pomparsi in palestra. Sì, con esatto. Questo genere cazzuto, Cazzuto, a questo punto cosa devo chiedere? Devo chiedervi assolutamente. Cosa succederà adesso ai Madness of Circus? Innanzitutto dobbiamo precisare una cosa. Sfortunatamente a gennaio il nostro bassista ha deciso di lasciare la band. Quindi noi al momento siamo alla ricerca di un bassista. Quindi, anzi, siamo quasi nelle fasi. Attenzione, attenzione. Sì, stiamo cercando un bassista. Siamo però nelle fasi finali, cioè nel senso che abbiamo selezionato alcune persone e probabilmente nei prossimi nelle prossime settimane o nei prossimi tempi cercheremo di decidere il nuovo componente. Questo ci porterà ovviamente di nuovo a, sempre perché ci piace fare le cose semplici, a complicare ancora di più le cose. ovviamente questo fatto di, ecco, uno lo può tradurre male, insomma, abbiamo deciso di fare delle audizioni per il nuovo bassista, non perché siamo ci sentiamo o in Limp Bizkit, perché abbiamo bisogno del bassista, però proprio perché questo genere è un po' particolare, quindi potrebbe definirsi di nicchia. Insomma, qui in Italia, perché siamo di nicchia, qui in Italia siamo più di nicchia noi che un gruppo gothic metal, sì, qui. È vero. Insomma, in generale, Quindi praticamente sei un abbiamo po' sbagliato, deciso di dare questa mentalità, io non l'accetto e mio. Praticamente abbiamo dato, lasciato spazio a, e devo dire che abbiamo ricevuto più di 20 richieste, sì, di bassisti che ci tenevano a fare l'audizione. A con me ha fatto piacere, anzi mi è piaciuto tantissimo dover dire di no ad alcuni, dobbiamo dire la verità. No, ma a parte, ma poi proprio l'audizione, cioè l'audizione purtroppo si deve fare, perché voi cerchi sempre comunque di capire quello che quell'elemento che andrà poi a fare nel gruppo, cosa andrà a fare. Per esempio l'audizione, comunque quando abbiamo sostenuto questa audizione, indipendentemente dai pezzi che noi facevamo suonare, i pezzi nostri insomma eccetera eccetera, c'era un momento in cui si improvvisava e si creava per capire più o meno il tiro che avesse insomma questo tipo di persona. E quello è importante, perché noi abbiamo bisogno, cioè noi, a parte che una cosa interessante è che tutti noi praticamente componiamo nel gruppo, sì. Cioè anche Luigi, per esempio, il batterista, che scrive e compone a partire da Salvo, poi che canta, insomma. Quindi abbiamo bisogno, la necessità di avere un'altra spalla forte, sì, con fondamentalmente, noi per quello... comporre. Questa è stata, sì, la motivazione. Ovviamente speriamo nel breve termine possibile di comunicare ufficialmente il nuovo bassista dei Madness, che già abbiamo una vaga idea, insomma. Sì, fondamentalmente sì. Noi abbiamo lavorato tanto anche negli ultimi tempi, comunque, anche se siamo rimasti fermi in quello che è il lavoro di composizione, ma anche di promozione, perché comunque è stata una bella botta, dobbiamo ammetterlo. Sì, è stato perdere Luca, è stato una cosa brutta. Sì. Anche è vivo, non è che abbiamo no, perché sembra che no. Semplicemente ha preferito portare avanti altri progetti, che personale. Però è stata una bella scommessa. E adesso, come abbiamo detto, stiamo continuando a lavorare, stiamo cercando nuovi live da fare, stiamo pensando già a nuovo materiale da produrre. Abbiamo già dei live quest'estate, stiamo lavorando dove possiamo ascoltarli, dai. Sicuramente a giugno al Caserta Tattoo Convention, dove suoneremo con tantissime band, tanti nostri amici, tanti emergenti, e quindi è un'occasione in più per darci un po' di ossigeno. Non lo diciamo soltanto tanto per noi, ma tanto per il movimento, fondamentalmente. Cioè, e poi altri festival. E poi stiamo ricercando tantissimi festival. Stiamo aspettando delle conferme, dire la vera. Non ci siamo fermati. Infatti, può sembrare dalla nostra pagina che abbiamo deciso di fermarci. No. Semplicemente abbiamo ricevuto la botta d'arresto, abbiamo cominciato a riassettare, di dare un sistema a quello che sono le nostre diciamo così direzioni, e abbiamo lavorato in silenzio, in un certo senso. Ci sono due cose fondamentali: noi è uscito il video Manizul, di cui la regia, sì, è praticamente di Salvo e di Luigi. Sempre ritornato al discorso di Reborn, è un disco tutto autoprodotto. Sì, tutto Luigi, cioè... ha curato tutta la parte video, lui l'artwork, Luca ha curato praticamente tutto per quanto, sì, riguarda la parte audio. E praticamente stiamo lavorando sul secondo video da fare. Stiamo scrivendo il secondo video. E la cosa bella, interessante, è che noi, giusto quasi un mese dopo dell'uscita del disco, abbiamo già registrato un futuro singolo. Eravamo già in... c'è un inedito mai, insomma, non ancora sfruttato, noi, che abbiamo, che sul quale stiamo ancora lavorando. Cioè, dobbiamo capire come vedi far uscire. Il nostro punto di forza, se mi è concesso dire, il fatto che non riusciamo a stare fermi, cioè nel senso che non ci mettiamo sotto pressione non siamo contenti. Forse questo giustifica anche il vostro nome, esatto, è sempre un carrozzone itinerante. Sì, noi appunto abbiamo tanta energia, abbiamo tanta voglia di suonare, perché appunto quello che ci piace è stare sul palco, e siccome ci hanno detto che ci viene bene, sul palco. A noi piace, quindi fondamentalmente sul palco noi ci stiamo bene, quindi... Fatelo voi, e soprattutto mi raccomando, ascoltate i Madness Circus, andateli a seguire, ascoltate la musica indipendente, ragazzi, che va tantissimo questo indie. Però c'è indie, nessuno sa che cazzo sia, però è indie. La musica inedita, perché qui io credo che a Napoli e dintorni abbiamo, sì, veramente. Ascoltate le radio come questa, che danno tanto spazio a questi, a tutti noi, fondamentalmente, che ci fanno scoprire tante. Gruppi, tanti mondi diversi, perché ogni gruppo è un mondo diverso. Le web radio le considero la voce dei gruppi. L'ossigeno, non tanto la voce, ma l'ossigeno. Noi ne abbiamo tanto da dare, non mi preoccupare. Specialmente sì, le 10. Non succederà mai. Anzi, colgo l'occasione per far partire un attimo la nostra sigla. Radioactivity. È il consueto momento dei ringraziamenti. Sì. Voglio ringraziare la Prologo che quest'anno ci ospita e possiamo continuare con il nostro lavoro radiofonico, web radio, per proporvelo a voi. E voglio ringraziare tutti i nostri supporter, in particolar modo Antonio Federico Airstylist, che sicuramente ci starà ascoltando. Voglio ringraziare tutti i follower di Radiation, siete tantissimi. Grazie a tutti quelli che hanno messo mi piace nelle ultime settimane. Radiation è in continua evoluzione, non ci fermeremo mai. E voglio ringraziare voi ragazzi che siete venuti qui. Grazie a voi ancora. Che avete portato la vostra esperienza, è veramente un'esperienza ricchissima e ancora in evoluzione, no, come il metal. Grazie a voi veramente, sempre per darci l'opportunità di farci ascoltare. Se mi consenti, vorrei ringraziare tutti gli ascoltatori, tutti i ragazzi che ci hanno ascoltato, che magari adesso sono sulle nostre pagine, sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. Ricordo un paio di link, dai. Sì, allora noi abbiamo una, ovviamente cercando Madness Circus su Facebook c'è la nostra pagina, c'è la nostra pagina ufficiale, e su YouTube c'è il nostro canale ufficiale, dove ci sono tutte le nostre follie, fondamentalmente, tra cui i video natalizi che ormai sono diventati, che ci chiedono, no, allora a nessuno, dovete sapere una cosa, che a nessuno frega niente di quello che facciamo dal punto di vista di Netflix, ma a Natale il video di Natale dobbiamo sempre tirar fuori qualcosa. Per capire di cosa sto parlando, ovviamente dovete andare sul canale YouTube. Mi raccomando, cercate anche il nostro canale di Radiation. Ovvio. Siamo sempre a vostra disposizione ogni sera di ogni settimana. Ringrazio ancora i Madness Circus. Grazie. Arrivederci prestissimo, anzi speriamo. Ci vedremo live, in qualche concerto di tornare con il nuovo disco. Il nuovo disco, io aspetto il nostro nuovo disco. Ovviamente sarò come un segugio appena uscirà. Ma saremo noi a seguire te, tranquillo. Appena uscirà io sarò sui primi a chiedervi venite di nuovo qui. Vi ringrazio ancora e vi lascio con altre due canzoni che voi avete proposto, sì, di altri due gruppi, uno abbastanza famoso per me, l'altro famoso comunque, ma un po' più sono sconosciuto. Sono altri due, allora noi siamo sempre, come abbiamo detto prima, siamo sempre alla ricerca di spunti musicali. Uno è abbastanza classico, un brano che è In Waves dei Trivium. E l'altro invece è un gruppo che ho ascoltato un po' di tempo fa, che mi ha fatto letteralmente esplodere il cervello, cioè nel senso che sono secondo me il futuro di quello che è il nostro genere. Vogliamo muoverci, stiamo iniziando a muoverci anche noi in quella direzione là, che sono i 12 Foot Ninja, è un gruppo australiano, tra l'altro recentemente ha terminato una tournée in Nord America, quindi stanno prendendo sempre più piede, e sono in questo momento al lavoro su un nuovo disco, quindi stiamo anche noi in attesa. Speriamo che vengano in Italia per conoscerli, a dire la verità li piantoneremo per dargli un po' di materiale. Bene, mi lascio a queste ultime due canzoni che hanno scelto i Madness Circus, e io vi ringrazio per essere stati tutti nella Metal Keep on Zone. Stay mad, guys! Ciao. always within instead of without. So much so, we have forgotten all about you. If we were to be sure, we had to save the doubt. But now you know, there is a brand new place to pierce the veil and solve you. Make peace within, emanates without. So much so, we could never force a coercion upon you. If you're ever unsure,